Le ragioni sono molteplici, nel senso che abbiamo scritto anche in qualche modo, non nel titolo di lancio della manifestazione, più diritti per tutti contro il governo Salvini di Maio, perché le due cose, diciamo, vanno nella stessa direzione, cioè chiedere più diritti per tutti oggi significa anche opporsi a questo nuovo governo, che è un governo che nelle sue mille facce, il governo Salvini di Maio, no, da un lato attacca quotidianamente i diritti, attacca i diritti dei migranti, attacca i diritti delle comunità LGBTQ, attacca i diritti di chi in qualche modo pratica solidarietà quotidianamente. Sono degli ultimi giorni, da un lato l'attacco all'istituto del gratuito patrocinio per, insomma, le persone che non hanno la possibilità di permettersi un avvocato per difendersi, e dall'altro, no, in qualche modo, no, anche dietro l'attacco ai fondi per l'accoglienza, il ministro Salvini ha detto di voler tagliare 2,5 miliardi, 5 miliardi di fondi per l'accoglienza. In qualche modo c'è anche un attacco a un determinato modo di intendere la società, c'è un attacco a tutte quelle persone che lavorano, che si impegnano quotidianamente nell'integrazione, nella solidarietà, nella pratica dell'accoglienza reale. Dall'altro lato c'è anche un tentativo in qualche modo, no, di contrapporre diritti scritto nel contratto di governo, asilo nido solo per le famiglie italiane versus le famiglie migranti, diritti sul lavoro solo per determinate categorie di lavoro, invece ignorarne totalmente altre. Una continua contrapposizione e separazione sulle linee della classe, del genere e della razza che viene portata avanti da questo governo. Noi diciamo invece, no, se ne esce solo chiedendo più diritti per tutti. Voi quindi non credete a questa doppia anima del governo, da un lato l'anima, diciamo, più reazionaria della Lega e invece quella del Movimento 5 Stelle, quindi di Maio, un po' più, diciamo così, progressista? Ve lo chiedo anche perché voi spesso nei vostri centri sociali ospitate anche i rider con le loro battaglie, quindi, come dire, è un'illusione? Non solo è un'illusione, ma noi crediamo che sia proprio in qualche modo, no, una strategia funzionale a questa alleanza di governo mostrarsi nelle sue due facce, che poi sono due facce della stessa medaglia, no? Un mostro con due teste, l'abbiamo definito, da una parte la testa di Salvini e dall'altra quella di Di Maio, che è ovviamente funzionale, è una strategia di consenso che ha la sua logica appunto nel divide et impera, cioè da un lato cercare di creare divisioni, da un lato fomentando sulla paura, sul razzismo, sulla discriminazione, odio e paura, e dall'altro lato invece facendo in qualche modo, solleticando alcune promesse che poi bisognerà anche vedere quante sarà la capacità reale di mantenerla, invece quando saranno solo esclusivamente degli slogan, appunto. Concretamente come si svolgerà la manifestazione? L'appuntamento è alle 5 a Piazza del Nettuno, davanti alla Sala Borse, e da lì si partirà per un corteo, e l'idea è quella, insomma, abbiamo scritto, abbiamo detto, di giungere in prefettura e chiedere un incontro nel quale ci piacerebbe porre alcune questioni che per noi sono molto importanti. Su tutte le abbiamo scritto, insomma, cioè la questura di Bologna, che con il beneplacito della prefettura negli ultimi anni sta attuando tutta una serie di prassi illegittimi rispetto ai rinnovi dei permessi di soggiorno. Prassi illegittimi significa che chiede delle documentazioni che a norma di legge non sono previste per il rinnovo dei permessi di soggiorno, rispetto a, insomma, il titolo del domicilio, firma del proprietario, certificato residenza e così via, e su queste ci piacerebbe in qualche modo che queste cose non succedano più, perché dovremmo chiedere un impegno concreto a questo punto di vista a conformarci a norma di legge rispetto alle procedure per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Oltre a questo, in qualche modo ci sono anche alcune istanze specifiche, una di queste è quella, insomma, portata avanti dagli operatori nel mondo dell'accoglienza, che vorrebbero dire qualcosa rispetto al tentativo portato avanti da comune e prefettura di sostanzialmente far lavorare gratis i richiedenti asilo per pulire i muri della città di Bologna, tra l'altro utilizzando i fondi FAMI, che sono fondi previsti per l'integrazione e non fondi che dovrebbero pagare le ristrutturazioni al comune di Bologna. Questa iniziativa a Bologna è sponsorizzata, diciamo così, anche dall'assessore alla sicurezza Aitini, che in realtà è di un'altra, come dire, fazione corrente politica, cioè del Partito Democratico, non è né di Movimento 5 Stelle e Lega. Anche in quello che una volta era il centro-sinistra si alimenta un clima, il clima che stiamo vivendo. Noi il 27 maggio scorso abbiamo fatto una grande manifestazione intitolata Bologna accoglie, il cui striscione d'apertura era contro legge Bossi-Fini, contro la legge Minniti-Orlando. Il ministro Salvini lo ha detto chiaramente, il ministro Minniti ha fatto un ottimo lavoro. Questo che significa? Significa che ministro Minniti, con le sue leggi, Minniti Orlando, anzi specifichiamo, proprio interno al Partito Democratico, ha praticamente spianato la strada a quello che poi in qualche modo il lavoro che Salvini dovrà andare a fare, sia rispetto alle procedure di espulsione con gli accordi bilaterali, sia rispetto all'inagibilità del Mediterraneo per le ONG, tramite quel patto con le ONG che il ministro Minniti ha obbligato le ONG che volevano operare, volevano salvare il mare a firmare oppure a tirarsi fuori, tramite anche la costruzione di un clima in qualche modo che le poi legittimato quello che oggi Salvini va a portare, per cui cioè, noi non vediamo una discontinuità nel lavoro di Salvini rispetto a quello del precedente ministro Minniti, al massimo vediamo un approfondimento, però la direzione di lavoro è sempre quella, perché insomma ci fa anche un po' ridere chi oggi si atteggia a paladino dei diritti umani quando ieri fingeva gli accordi con i dittatori libici e faceva morire i migranti nel deserto della Libia.